a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Altra puntata a Regola d'Arte, ben trovati da Francesco Galante. Anche oggi un altro argomento interessante. Ho con me ospite al telefono Franco Silvestrin, presidente del sistema di categoria autoriparatori di UPA. Ben trovato. Buongiorno a lei e anche ai suoi radioascoltatori, un saluto a tutti e una buona giornata, visto la giornata soleggiata estiva che abbiamo oggi. Certo, grazie. Allora, parliamo di un evento che è capitato nei giorni 17-18 giugno scorso, dove in occasione della tappa di Misano del campionato mondiale di Superbike, alcune delle aziende che aderivano al progetto Imprese in Rete Settore Meccanica e Meccatronica, sono 20 aziende associate ad UPA, appartenenti ai sistemi di categoria officine meccaniche e autoriparatori, siete andati ospiti del Barney Racing Team per seguire le prove del venerdì del Superbike e scoprire anche gli aspetti tecnologici più interessanti di questa manifestazione delle Superbike. Esatto. Abbiamo avuto il piacere, con un progetto finanziato e proposto dopo formazione di Padova della Confartigianato, con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto, di partecipare a questi due giorni di un percorso di eco-innovazione promosso dall'Unione Provinciale Artigiani. Abbiamo incontrato questa azienda, che è una delle pochissime leader in Europa, italiane in Europa, che può usare la Ducati semi-ufficiale, proprio prestata da Ducati Italia, insomma. Ah, quindi loro hanno a disposizione una moto e cosa fanno? Fanno delle modifiche? Loro, questa moto viene fornita da Ducati e loro la gestiscono nei campi di gara. Ducati fornisce una parte di elettronica e sicuramente la meccanica, il telaio completo. La Pirelli monogomma tutto il campionato, fornisce i pneumatici e poi la scuderia all'interno i propri ingegneri, i propri meccanici, che gestisce l'assetto, telemetria, l'elettronica, le riparazioni, quello che serve perché questo mezzo sia vincente nei campi di gara. Difatti mi sembra che domenica il pilota sia arrivato quarto nella seconda gara del Superbike a livello mondiale. No? Ecco, lei è il presidente di categoria degli autoriparatori di UPA, quindi immagino, insomma, eravate nel campo vostro. Io rappresento proprio il sistema di categoria dell'autoriparazione nella provincia di Padova. Sì. Diciamo che anche noi adesso stiamo, come questi, sempre evolvendo. Difatti da gennaio 2018 non saremo più autoriparatori, ma diventeremo meccatronici. Ah, si chiamerà così, meccatronici, anche perché effettivamente rispetto a una volta l'elettronica è entrata prepotentemente, insomma, in tutte le automobili, le moto, insomma, quindi bisogna saperci lavorare su queste cose. Penso che oggi vetture e moto siano il componente più evoluto nell'elettronica del mondo, insomma. Pensiamo che su una moto, non sono proprio certo, ma una vettura, arriviamo anche a 95, 110, 100 calcolatori che gestiscono tutte le parti dell'autovettura, dal sedile elettrico, scaldato, messa in moto, clima, vetri, sedili, insomma, possiamo metterne specchietti riscaldati, possiamo inserire di tutto attualmente. E attualmente il piacere di vedere questi lavorare è stato anche che avevano circa 4 monitor, sempre collegati con la telemetria, e potevano dividere il circuito a settori per capire dove andavano forte, dove perdevano, dove la moto non andava più, dove staccava. Cioè, era una cosa proprio meravigliosa da vedere. Per noi che non siamo abituati, insomma, certo, a questo mondo. Un'analisi completa di quello che faceva la moto in pista, da quando si mette in moto in mezzo a quando lo si spegne, insomma. Anche la sensazione che questo pilota è seduto dentro il box, sta aspettando che i meccanici preparino la moto, la riscaldino, sì, prima di entrare. Sali in moto e va via, cioè, e apre il gas in automatico, proprio fai i primi 50 metri del paddock, naturalmente, dove sono i limiti di velocità. Mm-hmm. Ma poi una volta uscito fai le prime due curve, avendo già le gomme in temperatura, perché sono sotto riscaldate, sono tutta una serie di procedure, insomma, che portano già in temperatura i pneumatici, è una cosa proprio... neanche il tempo di respirare già vanno al massimo. Ecco, che sensazioni si è riportato a casa lei, come anche i suoi colleghi, che avete fatto questa due giorni? Beh, intanto dobbiamo ringraziare il nostro ufficiale Gianni che ci ha dato questa possibilità, e il team Barney, mi sembra che sia di Bergamo, che ci ha ospitato, in quanto alcune nostre aziende forniscono parti tecnologici per questa azienda, non siamo andati là per caso, insomma. Qualcuno dei nostri è partner di questa. e abbiamo visto proprio la professionalità e il silenzio che galleggia in questi box dove tutti lavorano e nessuno parla, fanno a gesti. Cioè, basta uno sguardo per capire le sensazioni che i meccanici devono avere uno con l'altro e ognuno fa il proprio compito. Questa è una cosa proprio che ci lascia, insomma, da noi, che non è proprio sempre così nelle nostre officine, perché insomma, si parla, si dialoga, si confronta, là ognuno sa quello che deve fare, soprattutto gli ingegneri si confrontano moltissimo col pilota e le telemetrie che usano, che scaricano durante i giri di prova, insomma. Certo, lì evidentemente è una cosa molto specialistica, quindi ognuno sa bene il lavoro che deve fare. Magari in una officina di autoriparazione i problemi sono ben più ampi e possono essere diversificati, e quindi è bene comunque che ci sia anche uno scambio tra chi ci lavora dentro, no? Esatto. Va bene. Secondo giorno è stato comunque importante, anche sabato abbiamo fatto questo corso di innovazione, visto che noi siamo comunque imprenditori delle nostre aziende, sì. E confrontarci con dei professionisti che ci indicano qualcosa di diverso da quello che facciamo tutti i giorni, penso che sia anche importante questo, perché tante volte le nostre aziende siamo un po' sempre, non ho miopi, però insomma abbiamo delle idee standard dove ci confrontiamo sempre le stesse cose, e invece il mondo sta cambiando e delle volte le tecnologie sono varie, e qualcuno, confrontarci, ci aiuta a migliorare quello che facciamo tutti i giorni, cambiare magari i procedimenti di lavoro che abbiamo all'interno, migliorarci nei tempi, nelle forme, e usare il tempo in maniera positiva. Sabato 18 è, appunto, avete avuto un corso con la Toyota. Sì, era sulle linee fatte dalla Toyota, siccome Toyota è un leader mondiale che sicuramente studia in maniera diversa, gestione delle aziende, del tempo, degli spazi in azienda, come certo. Gestire l'azienda nei personale, costi, produttività. Se ognuno di noi, io penso, abbia recepito il 20% della giornata, in qualche mese riesce a trasmettere in azienda, penso che avrà sicuramente degli utili e dei frutti positivi. Bene, quindi condividere le idee, fare sistema tra tutti voi autoriparatori può essere utile per riuscire ad abbattere i costi, a essere più veloci e più professionali. Grazie. Ripeto, siccome che il mondo sta cambiando, la nostra professionalità sta cambiando, se noi riusciamo a fare un po' di squadra tra colleghi, penso è solo a nostro vantaggio. Certo. Perché adesso vediamo le case costruttrici che hanno delle sedi grandi, ma sono posizionate in un punto fisso della provincia di Padova. Mm-hmm. Noi siamo capillari nel territorio e quindi noi dobbiamo essere coscienti che siamo comunque una potenza. Se riusciamo però, che questo è un po' il nostro crucio, di riuscire a fare squadra. Questo è, penso che sia la nostra sfida del futuro. È vero. Grazie a Franco Silvestrin per averci passato queste importanti idee. Ricordo Franco Silvestrin, presidente del sistema di categoria autoriparatori di UPA. Grazie. Ringrazio lei, i radioascoltatori, e saluto tutti gli autoriparatori della provincia di Padova, e in bocca al lupo a tutti. Ci fermiamo per un po' di musica e tra poco con noi un altro ospite. Hasta luego. Solitaire. J'ai vu ma ville grandir, puis se diviser en deux parties à travers les années. Les riches qui trichent, qui pillent la ville sans être condamnés. Les pauvres qui par les sentiments ne disent jamais non tant qu'on leur ment poliment. Les épaules endurcies par le poids de la misère qui s'abat sur eux sans foi ni loi. Hasta luego, hasta luego. Je vais prendre aux dirigeants pour rendre aux indigents. Hasta luego, hasta luego. Je redonne le sourire. Fatigué, j'ai vu leur vie. trouver la sortie. Je voulais disparaître comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. Hasta luego, hasta luego. Comme un cavalier solitaire. Hasta luego, hasta luego. Comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. Hasta luego, je ne fais que passer par là. Hasta luego, le monde ne me suffit pas. Oh, oh, oh, j'ai pris le maco, il y avait des lingots. Hasta luego, oh, oh, oh, j'ai pris le maco, j'en ai fait gâteau. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Eccoci ancora insieme con A Regola d'Arte, vi stiamo parlando di questo doppio appuntamento che il 17-18 giugno ha visto 20 aziende associate ad UPA appartenenti ai sistemi di categoria officine meccaniche e autoriparatori a questo progetto. Sono stati ospiti del Barney Racing Team a Misano per seguire le prove del campionato mondiale di Superbike e anche scoprire altri aspetti tecnologici interessanti, anche scoprire l'organizzazione aziendale. Abbiamo avuto prima ospite con noi al telefono Franco Silvestrin, presidente del sistema di categoria autoriparatori di UPA. Adesso con noi c'è Federico Boin, presidente di categoria officine meccaniche di UPA. Ben trovato. Buongiorno. So che sono stati due giorni veramente interessanti. Sì, diciamo che sono stati due giorni interessanti, soprattutto perché abbiamo toccato con mano, siamo riusciti a toccare con mano quello che è effettivamente l'estremizzazione di quello che è la lean production, cioè la produzione snella. Sì. Noi come officine meccaniche e officine di meccatronica stiamo facendo un percorso che è un percorso di rete che alla fine è stato coronato con questi due giorni. Diciamo che la lean production, la produzione snella, è estremizzata, ho detto estremizzata perché nel settore motociclistico logicamente produzione snella significa impiegarsi pochissimo tempo per raggiungere l'obiettivo che è quello di vincere un gran premio. Mm-hmm. Diciamo che per le nostre aziende è stato interessante per capire a cosa un'azienda anche magari di dimensioni piccole come possono essere le nostre aziende artigiane possono, diciamo, portare all'interno delle proprie realtà, delle proprie attività, delle soluzioni che permettano di aggredire in modo più efficace il mercato, quindi riducendo sprechi, riducendo perdite di tempo e magari anche semplicemente riorganizzando quello che è un banco di lavoro. Questo ci hanno dimostrato, diciamo, all'interno dei box. Che si può fare, insomma, partire da un'idea, da un progetto e riuscire a realizzarlo magari ottimizzando i tempi. Esatto, sicuramente. Perché ecco, vediamo che nelle nostre aziende comunque sprechi di tempo perché magari abbiamo degli operatori che per lavorare magari in fretta pensano di ottenere il massimo risultato, invece magari semplicemente riorganizzando un banco di lavoro e lavorando magari con più criterio si riescono a ottenere migliori risultati. Ecco, voi avete partecipato, dicevo, 20 aziende a questa due giorni e quindi mi sembra di capire che la formazione è assolutamente importante. Beh, diciamo che adesso come adesso la formazione è alla base, deve essere alla base delle nostre aziende, perché sia dal punto di vista dell'imprenditore che dal punto di vista dei nostri collaboratori ci deve essere formazione, perché avendo persone formate vuol dire avere persone che sanno cosa significa produrre, sanno affrontare i lavori con coerenza e capacità. Questo permette alle nostre aziende di affrontare appunto clientela nuova, più esigente, clientela che magari una volta non si aveva neanche il coraggio di contattare, proprio perché dal nostro punto di vista artigianale c'era mancanza di formazione. Una cosa, prima ho parlato con Franco Silvestrin, che è appunto della categoria autoriparatori, no? Sì. Mentre voi siete officine meccaniche, quindi sì. Mentre i primi diciamo montano i pezzi che fate voi sì. Invece li costruite, li progettate, esatto. Partendo da zero, quindi c'è anche proprio uno studio e un'idea che parte da zero. Sì, diciamo che proprio forse si tocca più con mano in questo settore qui l'artigianato che magari sulle produzioni di serie, perché anche in questo caso specifico si parte da una moto che alla fine è venduta sul mercato, che è appunto una Ducati Panigale R, che viene però diciamo portata agli estremi risultati lavorando su quelle che sono le parti meccaniche, le parti elettroniche e quant'altro. Nelle nostre aziende facciamo pezzi praticamente per queste moto, possiamo elaborare dei progetti su queste moto assieme logicamente ai committenti, che sono chi gareggia, chi costruisce la moto e quant'altro. Quindi per noi, diciamo, artigiani è veramente stato importante, perché abbiamo toccato con mano quello che è un mondo tra virgolette artigianale, che è quello del racing. Sì, io non sono un motociclista, ma so che insomma gli appassionati di moto sono molti, e quando uno ha una moto magari vuole sempre andare a cambiare qualche cosa. Beh, questo sicuramente, infatti tanti particolari vengono appunto dal proprietario della moto tra virgolette elaborati, nel senso che magari, cioè, io sono un appassionato di moto, parlando dalla moto tipo l'Harley Davidson, c'è quello che vuole magari modificare il portellone, quindi si fa modificare le piastre della portella, si fa modificare proprio i canotti, gli steli, si fa modificare le pedaliere, ci sono molte possibilità di customizzazione su una moto. Adesso io ho parlato di una Harley Davidson per fare un nome molto conosciuto, certo. Ma si può partire da una moto stradale qualunque, cioè la personalizzazione è fattibilissima, appunto, soprattutto se uno è un'azienda artigiana, delle macchine utensili la fa senza problemi. Certo, e restando nel tema moto, che credo che sia anche curioso per chi ci ascolta, invece chi ha una moto d'epoca tende sempre a cercare i pezzi originali, non a fare modifiche? Ma no, sinceramente, perché noi abbiamo collaborato a suo tempo con un'azienda che è proprio un'azienda artigiana formata da ragazzi giovani che prendono moto d'epoca, magari su base di moto Guzzi d'epoca, e partendo dal telaio vanno a modificare tutta quella che è la parte meccanica e anche estetica della moto stessa, e creano proprio delle customizzazioni su moto d'epoca che vengono poi rivendute, reimmatricolate, vengono fatti i passaggi all'interno della motorizzazione civile per rimettere in strada queste moto, che partono comunque da basi di moto d'epoca e hanno un loro mercato, perché questi ragazzi, che è un'azienda veramente artigiana, avranno un paio di dipendenti, vendono, non dico in tutto il mondo, ma quasi. Quindi anche dalla moto d'epoca si può realizzare una customizzazione. Ho imparato qualcosa. Va bene, grazie per averci raccontato questi altri particolari. Grazie a Federico Boin, presidente di categoria Officine Meccaniche di UPA. Arrivederci, buongiorno, grazie a lei. E così siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di A Regola d'Arte. Vi ricordo che trovate tante utili informazioni nel sito dell'UPA di Padova, che è www.upa.padova.it, oppure collegatevi ai profili social di UPA su Facebook, Twitter e YouTube. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.